Si dice IVA lavata e per gli evasori è il nome di un meccanismo per fare soldi acquistando prodotti senza IVA, appunto perché provenienti da paesi dell'Unione Europea e poi dimenticandosi del tutto di questa imposta quando si vendono. Un'amnesia diffusa che frutta addirittura milioni di euro e mette fuori mercato gli operatori onesti, i quali, applicando la corretta imposta, sono costretti a vendere il prodotto ad un prezzo maggiore. È il caso di una serie di società fittizie che tra il 2008 e 2011 emettevano migliaia di fatture false relative a prodotti elettronici, appunto acquistati senza IVA, in quanto provenienti da paesi dell'Unione Europea e poi ceduti ad operatori nazionali senza che venisse ricaricata l'imposta come stabilito dalla legge. I risultati di questa amnesia, oltre a una colossale evasione fiscale di oltre 300 milioni di euro, l'emissione di fatture false per 184 milioni di euro e anche una truffa da 6 milioni di euro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.